Inizia ora Music for Youth. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Ehi, ehi, ehi, cosa state facendo lì dietro? Guardate che vi abbiamo visto, Ma state attenti, io e Favoto vi abbiamo visto, Favoto, tu li hai visti? Io ero con Bocelli un attimo e quindi mi sono distratto. Music for Youth ritorna tra le vostre baldanzose orecchie. Eh sì, torniamo in una veste inedita perché già da qualche tempo ci piace sperimentare. Poi non si dica che siamo i soliti tradizionalisti e pipì, pepè, vero niente. Esatto, cioè l'amore alla missionaria. No, a noi piace sperimentare. A questo punto cosa vi proponiamo questa sera? Questa sera si va a cover. Vi presentiamo un set da noi elegantemente scelto di canzoni che ci piacciono, rifatte da altri canzonieri o altri gruppi che ci piacciono. La classica cosa imperdibile, Favoto. Imperdibile / soltanto un po' autoreferenziale. Solo perché non abbiamo nessuno da invitare. No, beh, in realtà è perché vogliamo fare i ragazzi variegati. Variegati alla Nutella, variegato al cacao, alla Marena. Tu cosa preferisci? Io ho sempre un variegato alla Nutella, non mi dispiace. Ma anche tu sei quello di gusti alla frutta, vero? Eh sì, io la mia predisposizione per il variegato è abbastanza bassa, se posso dire. Però bisogna dire che c'è un variegato alla Nutella che io posso apprezzare. Lo puoi apprezzare? Eh sì. Chissà se lo apprezzano i The Killers. Sì, io volevo fare un cappello introduttivo alla serata. Io già ero partito per la tangente. Fai questo cappello introduttivo. No, dicendo che alla fine nei programmi radiofonici che ci capita di sentire abbiamo notato pressoché l'assenza di tipo un'attenzione alle cover. Per carità. Cioè, magari c'è della ragione in questo, ma perché non scoprirlo noi? Perché non essere un po' il Galileo Galilei della cover? No, infatti, ma hai le tue ragioni. Questa è la nostra sfida B-side, tipo ad Alessio Bertallotta di Radio DJ. Esatto. Oh, cacchio. Caro Alessio, cogli la sfida. Noi mica ti presentiamo Cotica. Esatto, noi ti presentiamo i Killers. Noi ti presentiamo i Killers, dei ragazzi che vengono dalla terra d'Albione come Radio Sherwood. No, non vengono dalla terra d'Albione, ma vengono dall'America. Bravissimo. Se fai no con la testolina vuol dire che sto sbagliando qualcosa. No, ma in realtà no, sono preso da questo variegato alla Nutella che mi rimbalza da orecchio a orecchio. E chi ti coverizzano? Dei signori che si chiamano Joy Division. E questi sì sono dalla terra d'Albione e sono un po' gli inventori della New Wave. Ecco, allora, un po' i nostri idoli. Sì, in realtà sì. E anche in questo caso io vorrei salutare Massi. Salutiamo Massi, è vero, di Twins FM, perché lui ai Joy Division ci ha fatto delle placchette in casa. Esatto, sì, è proprio delle placche anche dentali, dorate, e praticamente, i Joy Division non credo serva una grande presentazione. Comunque, i capolavori dei Joy Division c'è Shadowplay e i Killers hanno pensato di rifarla e andiamo a sentir come, direi. We'll be right back. Shadow Play dei The Killers. Questa era una cover di Ian Curtis e la sua band, i Joy Division. Defunti Joy Division hanno dato vita ai New Order. E infatti i Joy Division saranno in nostra compagnia, in compagnia di Music for Youth, sui 97.8 di Radio Sherwood e sui 102.2 di RSD anche più avanti nel corso della serata. Vi segnaliamo un'altra cover sempre dei Joy Division che non proponiamo nel nostro rooster, se posso definirlo rooster. Vediamo se è la stessa mia, perché sennò dopo io ne aggiungo un'altra. Io propongo gli Hot Chip, che hanno rifatto Transmission. Andatevela a sentire, questo il brano è stato anche inserito in una compilation in favore dei paesi, diciamo, tormentati da guerre civili, pensiamo ai paesi africani eccetera. Questi Hot Chip ci rifanno Transmission in una versione assolutamente fantastica, non tradendo in nessun modo l'originale. Invece, ed è quella che voglio aggiungere io perché non era la stessa tua, gli Editors, che andremo a ascoltare, esatto, in finale di puntata, con una cover tutto sommato interessante dei Gorillaz con Feel Good Inc., hanno rifatto Lullaby. Invece ora è il turno di un'altra accoppiata vincente, però se ci metti i nomi vicini ti viene un po' male, cioè sei un po' disorientato, no? Infatti sì, anche perché siamo un po' agli antipodi. Da una parte abbiamo Nina Simone. Eh sì. E dall'altra? I Muse, i glitteratissimi e pacchiani Muse, che tra l'altro lo sai che abitano vicino a Como, questi cari ragazzi. Tutti e tre? E a quanto pare sì. Tra l'altro il cantante Matt Bellamy ha una bella gnocca per le mani e mi pare sia pure italiano. Oh, molto, molto bene Matt. Sì, lui non che sia questo gran rappresentante della bellezza. No, ma magari è un po' anche un sex symbol Matt Bellamy, no? No? Beh, se essere sex symbol significa mettersi su delle lucette di Natale e cantare nel video di Undisclosed Desire, lo possiamo essere comodamente anche io e te. Benissimo. Vado a prendere la videocamerina e cacciamo qualcosa su YouTube? Sì, sì, sì. Io intanto prendo delle renne e delle luminarie e vediamo cosa si riesce a fare. Come dicevamo, i Muse, i glitteratissimi Muse, con queste loro chiome. Super chiome. Esatto, super chiome, ma brillantinate. È vero. In maniera anche un po' unta. Un po' laido, sì. Si scontrano contro la bellissima chioma afro di Nina Simone. Nina Simone, a cui capita di essere coverizzata un giorno sì e un giorno anche. Coverizzata e non solo, anche remixata, nel senso che recentemente, pare fosse il 2008, è uscito un disco che vi consiglio di soli remix su pezzi di Nina Simone che ha molto molto senso. Ah, siamo andati a comprare l'originale, Favoto. Ti ho accompagnato io perché tu mi hai detto: oh, devo andare a prendere il CD remix. Arrivo, Favoto. Sì, una bellissima copertina in dei colori tipo l'Ajax dei bei tempi andati, rosso, bianco, grigio. Queste cose qui. Andatevi a sentire, però prima andatevi a sentire questo pezzo che vi propone il signor Rino qui di fronte a me. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. On you. News. Questa era Feeling Good di Nina Simone su Music for Youth nella sua puntata coveristica. Abbiamo parlato dei Muse trio notevole, si fa anche riconoscere in quel dell'Italia per scambiarsi gli strumenti al programma sì, dell'avventura. Quelli che è il calcio. Eh sì. Mentre i mafiosi si scambiavano messaggi in carcere utilizzando il servizio di SMS di quelli che è il calcio, loro si scambiavano gli strumenti in studio. O i più simpatici pizzini, loro si scambiavano strumenti, e quindi il batterista si trovava a cantare e il chitarrista si trovava a suonare il basso e quell'altro a fare quel cacchio che gli pareva. Esatto, per completare il triangolo che si stava formando. L'avventura se ne accorge? No, ovviamente no. Si sente rapita dai Muse, comincia a soffrire di sindrome di Stoccolma, e parlando di sindromi passiamo al pezzo successivo. Eh sì, guardati là il collegamento. Un ottimo collegamento che ci riporta in Australia, terra di canguri, koala, un nostro amico e soprattutto terra i Bales. Vines o Vains, come li hai pronunciati te? Non lo so. Non lo so. Tu dici? Ma ditecelo per cortesia, ditecelo, carissimi radioascoltatori. I Vines o Vains a scelta, però forse sono Vines. Comunque, decidono questa volta di coverizzare chi? Due bei rapper che rispondono al nome di Outkast, alle soglie del successo, perché è da lì che sono partiti. Eh sì. Con Mrs. Jackson. Mrs. Jackson, un rap molto lento, carino, che noi ci ricordiamo, viene rifatto in questa chiave abbastanza originale, perché i Vines sono comunque legati ad un immaginario, diciamo, grunge o con un po' di influenza di rock anni 60. Per cui proviamo a vedere cosa ne nasce da questo putpurì di cervelli, diciamo. E allora, i Vines, questa è Mrs. Jackson su MFY. Jackson, I am for real. Never Miss Jackson degli Outcast, coverizzata dai The Vines. Fino in Australia ci tocca andare favotto per beccarci una cover. Ma adesso noi torniamo in quel che è la terra d'Albione. Vi abbiamo detto che i Joy Division sarebbero stati con noi per un altro per un altro appuntamento insieme, un altro appuntamento al buio. E infatti chi si cimenta nel coverizzare i Joy Division questa volta? Il nostro amato, ma mai messo in playlist a Music for Youth perché un po' difficilotto, Square Pusher. Esattamente, Square Pusher, che mi dà che mi permette di salutare tutte le persone che ancora non mi vogliono sputare e che vivono in Scozia, e in particolare Adam, che insomma, che mi ha fatto andare avanti in questi anni fatti di gonnellini e caccia al cinghiale. Sai che ti do sempre la possibilità di dire una bella frase strutturata in inglese se vuoi. Ma poi, io no, se te la senti, se no facciamo no, anche almeno. Come tutti sanno, in queste cose sono timido, e per cui Adam si accontenterà della canzone. Va bene. Però Adam, accontentati. Enjoy a mate. Eccola là, sapevo che arrivava prima o dopo. E comunque tornando a Square Pusher, beh, DJ di fama mondiale se non interplanetaria. Di sicuro non di fame mondiale, perché lui di soldi ne fa veramente tanti. Sì, esatto. E la pancia sarà sempre piena quanto le tasche. Esatto, e comunque e non è piena nella stessa maniera in cui è piena quella di un bambino del Biafra. Ma comunque tornando a noi, questa è una cover di Love Will Tear Us Apart Again, che non è secondo me una canzone facile da coverizzare. Assolutamente no, ma lui, polistrumentista e anche molto strutturato, sì, come DJ, perché sa veramente spaziare tra tantissimi generi: l'acid, il jazz, l'elettronica, la drum and bass, musica ambient, insomma l'avanguardia assoluta. È veramente Square Pusher è un nome pressoché definitivo. Sì, sì, al sì. Pari di DJ Shadow, sì, si contende per altri versi, però sì. Tra l'altro posso dire di averlo sentito live in quel di Glasgow, è stato un'apparizione. Vi aggiungo anche che la canzone che state per sentire è contenuta in un CD chiamato Covered, che vi propone, oltre a questo pezzo, una serie di altre chicche, tra cui abbiamo i Simian Mobile Disco che rifanno i Beatles, i Flunk che fa qualcosa di bellissimo, e una versione a cappella di I Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue. Esatto. Noi per ora ci accontentiamo di Love Will Tear Us Apart Again. Questi sono i Joy Division, coverizzati dall'ottimo Square Pusher. Turn our visions on the horizon. Love Will Cheer Us Apart Again. Questi erano i Joy Division coverizzati da chi? Da chi, Favotto? Da Square Pusher. Un ottimo Square Pusher che ringraziamo per il featuring. Spacciatore di piazza, eh? Visto che a noi ci piace. Ognuno si sceglie le sue occupazioni. Fa l'artigiano. Si settorializza su quello in cui è più pratico. Anche territorialmente, infatti, lui sceglie le piazze. Potrebbe essere lo spacciatore di viale. La bilancia comunale dietro la pescheria. Esatto. No. La pescheria medesima. O la pescheria medesima. No. Poi un ragazzo che si espone, tra l'altro. Esatto, non il vicolo, sì. Buio. No, la piazza. Cioè, per cui vuol dire che c'è anche una tecnica, che se lavori all'aria aperta, così, davanti a tutti, te la fai sotto l'occhio della vigile. C'è anche un po' di esibizionismo, secondo me, in tutto ciò. Io quasi quasi ci penso e gli lancio un capo d'accusa a caso. Busta gialla per lui in posta. Va bene, e è la questura in questi casi. Ed è la questura, invece, chi è adesso che bussa alle nostre porte? Bussa Lou Reed. Lou Reed, lui ride. Lui ride e anche gli Strokes se la ridono, mentre coverizzano Walk on the Wild Side. E qui si parte a parlare di Velvet Underground e Nico. Eh sì, Lou Reed e i Velvet Underground credo che siano uno dei gruppi più coverizzati della storia. In un rapido briefing tra due illustri cervelli, ossia il mio e quello di Terzariol, noi abbiamo trovato almeno un 10 cover di pezzi differenti, sempre di Nico e Lou Reed e i Velvet Underground. E in vi genere. Prego, andate tantissimo ad ascoltarmi una canzone che è Walk on the Wild Side, rifatta in italiano da Patti Pravo. Ah sì. Si chiama I Giardini di Kensington. Tu, tu, du, tu, tu, du, tu, du. Ora voglio dire, Patti Pravo, dati all'ippica. Tu che vivi ai Giardini di Kensington. Eh sì, tu che a Kensington corri. Esatto. Andatevela a sentire perché a suo modo è anche interessante come canzone. Oddio, non cambierà mai, né sposterà di una virgola la storia della musica. Però dai, è un prodottino. Sì, sì, però, e poi comunque fa parte di tutto quel filone anni 60-70 in cui si riportano in italiano pezzi stranieri famosi, il che non è mica niente di brutto. Infatti salutiamo Gianni Morandi, che aveva rifatto una canzone che compare anche su I Love Radio Rock, un ottimo film che io e Favotto vi segnaliamo. Oh sì, assolutamente sì. Si parlava di Lou Reed, insomma, un ragazzo che entra nella factory di Andy Warhol, che sponsorizza l'album di Velvet Underground e Nico, quello con la banana. Esatto, cioè la mette lui la banana, insomma. E se la mette Andy Warhol, buona banana a tutti, esatto, come si suol dire. Banane del monte. A questo punto, gli Strokes la rifanno perché? Perché, è abbastanza evidente che i Velvet Underground sono un'influenza netta degli Strokes. Poi agli Strokes queste cose piace farle, nel senso che gli Strokes citano come una delle loro referenze principali, a parte i Velvet, anche i Ramones, e c'è una cover dei Ramones fatta sempre dagli Strokes, per cui è tutta pizza e fichi alla fine. Andiamoci ad ascoltare questa buona pizza e questi ottimi fichi di contorno, gli Strokes che coverizzano Velvet Underground. Questa è Walk on the Wild Side. Across USA, Susan Buzz, darling. But she never lost a hit, even when she was given hits. Says, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the color girls, they go, Favoto, take a walk on the wild side, please. Beh, se posso, ossia, quattro passi, alla fine tutti sanno che una mezz'ora di passeggiata al giorno, anche se on the wild side, comunque fa sempre bene. Comunque ti tiene in forma, stimola la circolazione. No, perché per una volta parcheggia la macchina un po' più sotto l'argine, per cortesia. Io lo faccio, eh. Tanto chissà che arrivi in appena e te la porti via. Oh, sì. O un Iveco e mi prenda quando io a mia volta attraverso l'argine. Ringraziamo Walk on the Wild Side ed in particolare gli Strokes per l'ottima cover live. Beh sì, sì. Una traccia live, tra l'altro. Non ve l'avevamo specificato. Volevamo sorprendervi, abbiamo sorpreso? Assolutamente no. No, non ce lo ricordavamo neanche noi e questa è la ragione. Andate via veramente comodi. Gli Strokes cedono il passo a chi? Ai Manix, e stiamo parlando dei Manix Street Preachers. La working class torna di prepotenza a gambe tese negli studi di Music for Youth. Manix Street Preachers, o voi socialisti figli di minatori e delle proteste degli anni 80, eccovi con una cover di chi? Di Rihanna. Io vi stimo per tutto questo, molto probabilmente sentite molto la lontananza e la mancanza del vostro bassista che è perso in qualche posto in Texas nel deserto. Sì, perché il ragazzo si è perso. È andato a farsi un Walk on the Wild Side. Infatti lui è uno dei celebri dispersi che si stanno ancora trovando. Sì, si dice che sia stato avvistato una volta, un po' come gli oggetti alieni non meglio identificati. Lui è stato avvistato una volta, ne è stata segnalata la presenza, ma prima che i curiosi e le forze dell'ordine accorressero, lui era sparito di nuovo. Mascherato da Gabibbo. Esatto. Se n'è andato via. Ora lavora sempre vestito da Gabibbo, ma un benzinaio. Esatto, e lui fa l'uomo sandwich. Tra l'altro, nelle giornate di sole si copre con un'ombrella. Perché si sa che... Under my umbrella. Si sa che lì il sole picchia. Eh sì. Manic Street Preachers, ottima band che ha fatto la storia del rock anni 90 e anche fine 80 in Inghilterra. Testi estremamente politicizzati e che si occupano in più punti di istanze sociali. Non iniziamo a snocciolare titoli, ma pensate solo... If You Tolerate This, piuttosto che a The Love of Richard Nixon, in cui si parla della politica estera di Nixon medesimo. E tu ricordati che togli il sole dal mio cuore, e in realtà è un loro pezzo che You Stole the Sun from My Heart. Eh sì. Mentre adesso andiamo a sentirci Umbrella, una cover molto easygoing di Rihanna. Tra l'altro aspettando i Manic Street Preachers in Italia. Manic Street Preachers, questa era Umbrella, una cover di Rihanna. Esatto, come dicevano in Platoon, aiutateci a ricordare, questa canzone è stata coverizzata anche da un gruppo pop punk italiano di cui io e Terzariol parlavamo nel fuori onda e di cui non riusciamo a ricordarci il nome. Anche perché il commento a questo gruppo italiano più gettonato le... I me fa proprio schifo. E a questo punto potete chiamarci allo 0421 560993 o mandarci un fax allo 0421 560994 o ancora una mail a radio@radiosandona.it e dirci: guarda che Umbrella di Rihanna è stata coverizzata da a quel punto vi portiamo qui e vi facciamo condurre la trasmissione, perché noi non lo meritiamo abbastanza. E se volete anche dirci che il gruppo vi piace, beh, ditecelo, ma noi non saremo mai d'accordo. Cioè, esatto. Possiamo scendere a patti su molte cose. Però noi, da quel punto di vista, andiamo a braccetto con Voltaire. Quindi, sebbene non saremo d'accordo con voi, faremo di tutto perché voi possiate esprimervi. Ma sai che c'è un dibattito e forse si dice che quella frase non è di Voltaire? Non so, sì. Non è di Voltaire. Non è di Voltaire e non ci ricordiamo neanche più di chi è, tra l'altro. Come quella famosa poesia che è sempre data a Neruda. È vero. Non è di Neruda. Non mi ricordo più la poesia. Guarda che l'Alzheimer è proprio galoppante. Sì, soprattutto, guarda, ascoltati, secondo me, siamo qualcosa di veramente inconcludente. Quanto la cover seguente che andremo ad ascoltare, perché è una cover di due artisti, una band e un gruppo, che di storia sostanzialmente non ne hanno. Per cui sì, andiamo solo che ad ascoltarceli. Cioè, se la fanno e se la godono, Sam Sparrow da una parte, i Guillemots che lo coverizzano. Se la fanno, se la godono, puliscono, e anche in silenzio. Per cui noi andiamo ad ascoltarceli sulle nostre frequenze in onde medie 102.2 RSD e Radio Shadow 97.800. Questo è il pezzo più famoso di Sam Sparrow, Black and Gold, coverizzato dai Guillemots. Fish swam out of the ocean and grew legs and they started walking, and the apes climbed down from the trees and grew tall and they started talking, and the stars fell out of the sky and my tears rolled into the ocean. Now I'm looking for a reason why you even set my world into motion. 'Cause if you're not really here, the stars don't even matter. Now I'm filled with the toxic fear that it's all just a bunch of matter. 'Cause if you're not really here, then I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and cold, black and cold. Up into the night sky, see a thousand eyes staring back, and all around these golden beacons I see nothing but black, black. I feel the weight of something beyond them, but I don't see what I can feel. The vision is the only validation that most of my life isn't real. 'Cause if you're not real, stars don't even matter. Now we fell to the top with fear, but it's all just a bunch of matter. 'Cause if you're not really here, then I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Black and gold. stars don't even matter. Now I'm filled to the top with fear that it's all just a bunch of matter. 'Cause if you're not really here, then I don't wanna be either. I wanna be next to you. I wanna be next to you, Mr. Favotto. Sei contento? Ma sono felicissimo. Intanto nel fuori onda si scopre il perché il qui presente Terzariol abbia scelto la traccia che avete appena sentito, ossia i Guillemots che si rifanno Sam Sparrow. Perché? Perché questa è una delle colonne sonore del footing mattutino barra pomeridiano di Daniele Terzariol. Oh, è gran vero, non è che mi vergogno, cioè, non è posso ascoltare Mayonnaise degli Smashing Pumpkins intanto che corro, cioè mi fermo nel primo parchetto dietro strada e mi faccio una pera. Beh, insomma, comunque saresti più disteso. E però anche in compagnia dei lacci mostatici. Esatto. Che cammino to. Tolgo un attimo sul tuo braccio. A questo punto andiamo con la prossima cover. La prossima cover sono i Lemonheads. Lemonheads che non sono un gruppo che è molto nelle nostre corde, ossia i Lemonheads fanno un simil punk, esplodono negli anni 80, esplodono e poi implodono in sostanza, ossia generano una serie di album abbastanza intriganti, tra cui posso consigliare Hate Your Friends perché ha un grosso senso, e in ogni disco più o meno mettono quelle 3-4 cover che ci piacciono tanto. Allora, i Lemonheads si sciolgono miseramente, abbiamo due cantanti, come un po' come nei Clash, Dando e Daily. Dando continua, dopo dei problemi di alcol non meglio specificati, continua con una sua carriera solista che genera anche dei notevoli risultati, ma noi andiamo a sentirli quando sono ancora nella loro formazione ufficiale. Inizialmente avevamo scelto una cover di Amazing Grace, canzone tipica scozzese, poi abortita. A questo punto abbiamo scelto una B-side. Questa che andiamo a sentire è Is on the Beach e è la B-side di uno dei maggiori singoli dei Lemonheads. Terzariol mi guarda con aria interrogativa, quindi vi svelerò qual è, e è Is Big Gay Art. Ringraziamo tra l'altro loro, i Dinosaur Junior e i Nirvana, per aver fatto la storia del rock negli Stati Uniti. Sì, io me la sento di doverli ringraziare. Beh sì, i Lemonheads magari meno dei Dinosaur Junior e di Nirvana, però ma prendendo dagli Husker Du e i Replacements, insomma, le loro basi ce le hanno. Beh sì, te lo senti di affermarlo? Non del tutto. Ne discutiamo fuori onda. Va bene, intanto andiamoci ad ascoltare su RSD 102.2 Radio Shadow 7800. Questa è He's on the Beach dei Lemonheads. I know he's changed somehow. It's in his postcards now. I'm not sure where he is, but he's out of reach. When he called me up one day and said that he was going away, I thought he'd been a week in France, not 12,000 miles to Sydney Bay. Should he have to take his chances? He said the time had come for him. I know he's changed somehow. It's in his postcards now. He's on his own again, and he's out of reach. And I don't blame him. Leaving was the best thing he could do. We long for changes. I just hope he's happy when he does the things he has to do. And he tries, he tries, he tries, but he's lived it all. I think he's trying. E questi erano i Lemonheads sui 97.8 di Radio Sherwood e sui 102.2 di Radio Sandonà. Testa del limone, che non ti sia altro. Esattamente. Lemonheads che ci accompagnano verso il climax di questa puntata, ossia anche questa volta stiamo concludendo per la gioia del vostro apparato uditivo. Dai che non è andata male stavolta. No, infatti, ascoltatore medio, cosa ne pensi? Chiamaci allo 0421560993 e dici che secondo te un'ora è troppa. Non è, anche se però non abbiamo fatto così schifo. Un insultino basta. Un insultino base. Un insultino base, tipo deficienti o cretini, più che sufficiente. Noi andiamo a casa contenti. Sì, sì, sì. Siamo tipi che si accontentano. Sì, il nostro risultato, anche se misero, lo abbiamo ottenuto. E a questo punto è tempo quasi di accomiatarsi. È il tempo delle mele, Favotto, e io mi rivolgo agli editori della Feltrinelli, delle Inaudi, di Fandango Libri, non lo so, gli editors, io mi rivolgo a loro. Oh signore, Terzario, ma che battuta è questa? Siccome non posso dire le solite porcate che diciamo io in bar, io e te davanti a delle seppioline, devo inventarmi sempre qualcosa di nuovo. Stiamo parlando degli editors. Eh sì. Che coverizzano Feel Good Inc. Ne parlavamo prima in quanto protagonisti di una cover. La cover era di Lullaby. La parlavamo all'inizio dei compianti Division. Joy Division, che abbiamo ascoltato all'andata con una cover di Love Will Tear Us Apart Again, rifatta da Square Pusher, e una cover di Shadowplay rifatta dai Killers. Ora gli editors, in questo network che vi stiamo creando durante questa puntata di Music for Youth, si cimentano in una cover di chi? Dei Gorillaz, la premiata ditta Gorillaz, Damon Albarn e Co., che piace tanto a me e a te e che è un punto di ancoraggio tra le nostre due diverse menti. Eh sì, e anche tra le nostre due diverse formazioni musicali. Di questa cosa abbiamo già parlato, probabilmente a sproposito. Comunque, questi sono i Gorillaz. Anche troppo. Sì, e anche troppo è già oltre i due secondi. Quindi, questi sono i Gorillaz, è Feel Good Inc. e questi sono gli editors. Stateci bene, stateci accorti. Questi erano Alvise Favotto, in plancia di comando Zio Lele. Vi ringraziamo per essere stati con noi in quest'ora di Music for Youth e vi rimandiamo alla prossima settimana. Alla prossima settimana, ciao ciao. Feel good. Feel good. City's breaking down on a camel's back. They just have to go, cause they don't know why. So all fill the streets, it's appealing to see. You won't get out the county, cause you're bad and free. Windmill, windmill for the lantern, forever hand in hand. Take it all there on your stride, it's ticking, falling down. Love forever, love is free, let's turn forever you. Everybody. he'll kiss. You got a new horizon, it's ephemeral style, a melancholy town where we never smile. And all I wanna hear is the message beep. My dreams, they gotta kiss me, cause I don't get sleep, no. Window, windmill for the lantern, forever hand in hand. Take it all there on your stride, it's ticking, falling down.